Europa 24. Ancora un buongiorno da Gigi Donnelly. Dunque, Europa 24 oggi apre inevitabilmente sulla parola del giorno, questo quantitative easing atteso dei giorni, come avete sentito qualche istante fa da Simone Spezia. Dunque alle 14.30 la comunicazione, fa sorridere questa aggiunta all'appuntamento classico appunto delle ore 14 su parte della BCE, perché appunto tutte le testate del mondo, di fatto quelle europee in particolare, ma non solo, ben oltre i confini europei, attendono appunto questa decisione. Allora noi naturalmente vi racconteremo tutto mentre gli eventi si svolgono. Intanto alcuni commenti che arrivano, in particolare ve ne segnalo uno di Piercarlo Padoan, il ministro dell'economia, che dice: è una buona cosa per l'Europa e per l'Italia, soprattutto contro i rischi di deflazione, così ha detto questa mattina a Davos, dunque in Svizzera. In Italia, ha aggiunto Padoan, il piano può avere un impatto significativo soprattutto sulle aspettative. Il rischio maggiore, ha detto, è che le aspettative di deflazione continuino a guidare comportamenti di famiglie e imprese. Il ministro non è entrato nel merito dell'entità e delle modalità del piano, ovviamente, che dovrà essere annunciato tra poco. Adesso dice: aspettiamo i dettagli, ma sono certo che i membri del Consiglio della BCE sceglieranno nel miglior modo possibile. Quanto alla ripartizione dei rischi tra paesi della zona euro, il ministro si è limitato ad osservare: non rispondo su questo punto, le autorità decideranno come ritengono meglio, ma bisogna tenere a mente che per un'unica unione monetaria ci vuole una politica comune e monetaria unica. Insomma, un'Europa che tra le complessità e le difficoltà però si muove, oggi potrebbe essere davvero un giorno importante verso una forma più unitaria. Cambiamo tema, avete sentito oggi gli aggiornamenti legati alla drammatica situazione in Ucraina. Ecco, c'è un paese europeo che più degli altri probabilmente sente questa pressione, della Finlandia. La Finlandia considera catastrofica la crisi in Ucraina e ritiene che la cosa più importante in una fase in cui la pace in Europa è minacciata dal terrorismo e dalla guerra ibrida sia arrivare alla pace in Ucraina. Così il presidente Niinistö nella conferenza stampa congiunta dopo un incontro con il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker. Finlandia che condivide 1300 chilometri di frontiera con la Russia e paese dunque particolarmente sollecitato da questa crisi. Ecco, in tema di sicurezza vi segnalo e magari vi faccio sentire anche in sottofondo una voce che è Timothy Kirkhope. Dice: abbiamo appuntamento di fatto il 4 febbraio. Kirkhope è il rappresentante esponente del Parlamento europeo britannico, ma è soprattutto per noi il rapporteur, quindi quello che tiene il dossier sul PNR, il famoso ormai passenger name record che abbiamo avuto sui biglietti per tanti anni senza guardarlo. Ora sappiamo invece che è al centro del dibattito, diciamo, tra maggiore sicurezza e maggiore libertà. Ricordo, il PNR è in discussione dunque il 4 febbraio prossimo. In passato il Parlamento europeo ha escluso e quindi respinto l'ipotesi di concentrare tutti i dati di viaggio a disposizione appunto dei sistemi informatici in un'unica centrale di ascolto e di gestione. Ecco, dopo gli eventi recenti francesi, la sensazione è che ci sia più disponibilità. Noi oggi, e in particolare questa sera ve lo segnalo alle 21.30, manderemo un'intervista doppia, cercheremo appunto di capire e spiegare insieme perché sì e perché no. Da una parte Timothy Kirkhope, dunque rapporteur per il Parlamento europeo, dall'altro chi si oppone. E infine, questo è anche il fine settimana delle elezioni greche, ne abbiamo parlato parecchio, vi anticipo sabato mattina un Euroreportage su questo tema. Non vogliamo interferire nel dibattito elettorale in Grecia, perché è ovvio che sta ai greci decidere cosa vogliono fare, l'unica cosa che pensiamo è che gli impegni presi debbano essere rispettati. Così il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker. Insomma, la tensione, preoccupazione per alcuni sul voto greco aumenta. Anche su questo tema noi naturalmente cercheremo di raccontarvi gli eventi momento per momento. E per ora è tutto per Europa 24, la pagina sportiva. Noi ci risentiamo domani alla stessa ora. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.